Capitolo 52esimo. L'alfabeto. Le tre Moire, o come altri sostengono, io, sorella di Foroneo, inventarono le cinque vocali del primo alfabeto e le consonanti B e T. Palamede, figlio di Nauplio, inventò le altre 11 consonanti, ed Ermete riprodusse questi suoni in segni, servendosi di segni cuneiformi, perché le gru volano in formazione a cuneo, e introdusse questo sistema dalla Grecia in Egitto. Questo fu l'alfabeto pelasgico che Cadmo in seguito riportò in Beozia e che l'arcade Evandro, un pelasgo, introdusse in Italia, dove sua madre, Carmenta, formò i noti 15 segni dell'alfabeto latino. Altre consonanti furono in seguito aggiunte all'alfabeto greco da Simonide di Samo e da Epicarmo di Sicilia, e due vocali, la O lunga e la E breve, furono invece aggiunte dai sacerdoti di Apollo, cosicché la sua sacra lira ha ora una vocale per ciascuna delle 7 corde. Alfa fu la prima delle 18 lettere, poiché Alfe significa onore e Alfainein significa inventare, e poiché Alfeo è il più nobile dei fiumi. Inoltre Cadmo, benché mutasse l'ordine delle lettere, mantenne la Alfa al primo posto, in quanto Aleph, nella lingua fenicia, significa bue e la Beozia è la terra dei buoi. L'alfabeto greco era una semplificazione dei geroglifici cretesi. Gli studiosi sono ora quasi unanimemente concordi nel ritenere che il primo alfabeto scritto nacque in Egitto durante il XVIII secolo prima di Cristo, per influenza cretese. Ciò corrisponde all'ipotesi di Aristide, citata da Plinio, secondo la quale un egiziano chiamato Meno, Luna, inventò l'alfabeto 15 anni prima del regno di Foroneo, re di Argo. Esistono tuttavia prove che prima dell'introduzione dell'alfabeto fenicio modificato esisteva in Grecia un alfabeto il cui segreto era gelosamente custodito dalle sacerdotesse della Luna, cioè Io o le tre Parche. Tale alfabeto era strettamente legato al calendario e le sue lettere non erano rappresentate da segni scritti, ma da ramoscelli recisi da alberi di specie diverse che simboleggiavano i diversi mesi dell'anno. Anche le lettere dell'antico alfabeto irlandese, come di quello usato dai druidi della Gallia descritti da Cesare, portavano il nome di alberi. L'alfabeto irlandese era chiamato Bet Luis Nion, Betulla, frassino di montagna, frassino dalle sue prime tre consonanti. E la sua composizione, che ci fa supporre un'origine frigia, corrispondeva a quella degli alfabeti pelasgico e latino. Era cioè di 13 consonanti e 5 vocali. In origine l'ordine delle lettere era A, B, L, N, O, F, S, H, U, D, T, C, E, M, G, N, G, O, G, N, R, I, e tale fu probabilmente anche la successione prescritta da Ermete. Gli Olaies irlandesi traducevano questo alfabeto in una specie di alfabeto muto, incrociando o piegando le dita per rappresentare le diverse lettere. Ogni consonante corrispondeva a un mese di 28 giorni di una serie di 13 mesi che iniziava 2 giorni dopo il solstizio d'inverno, e cioè 1. Dicembre 24. B. Betulla o olivo selvatico. 2. Gennaio 21. L. Frassino di montagna. 3. Febbraio 18. N. Frassino. 4. Marzo 18. F. Ontano o corniolo. 5. Aprile 15, S, salice, S, Z, prugno selvatico. 6. Maggio 13, H, biancospino o pero selvatico. 7. Giugno 10, D, quercia o terebinto. 8. Luglio 8, T, agrifoglio o quercia spinosa. 9. Agosto 5, C, noce. K, Q, melo o sorbolo. 10. Settembre 2. M. Vite. 11. Settembre 30. G. Edera. 12. Ottobre 28. NG o GN Giunco o Palla di Neve. 13. Novembre 25. R. Sambuco o Mirto. Verso il 400 avanti Cristo, in seguito alla rivoluzione religiosa, l'ordine delle lettere dell'alfabeto fu mutato come segue perché corrispondesse al nuovo calendario: B, L, F, S, N, H, D, T, C, Q, M, G, N, G, Z, R. Questo alfabeto viene associato a Eracle Ogmio o Ogma viso di sole, così come l'alfabeto più antico viene associato a Foroneo. Ogni vocale rappresentava la quarta parte di un anno. O, ginestra, l'equinozio di primavera. U, erica, il sostizio d'estate. E, pioppo, l'equinozio d'autunno. A, abete o palma, era l'albero della vita. E I, tasso, era l'albero della morte e simboleggiavano assieme il solstizio d'inverno. Questa successione arborea è implicita nella mitologia greca e latina, nella tradizione sacrale di tutta Europa e, mutatis mutandis, della Siria e dell'Asia Minore. La dea Carmenta inventò la B e la T unitamente alle vocali, perché ciascuna di queste due consonanti dava inizio a una metà dell'anno a lei sacro. Durante la prima regnava il divino Paredro, durante la seconda il suo successore. Le gru erano sacre a Ermete, protettore dei poeti prima che Apollo ne usurpasse le prerogative, e le lettere dell'alfabeto più antico furono cuneiformi. Palamede, antica intelligenza con la sua gru sacra, era la controfigura caria del dio egizio Thoth, inventore delle lettere, con il suo ibis sacro, parente della gru. Ed Ermete era l'antica controfigura ellenica dello stesso Thoth. Che Simonide ed Epicarmo aggiungessero nuove lettere all'alfabeto è un episodio storico e non leggendario, benché non si sappia bene perché l'abbiano fatto. Due delle lettere aggiunte, Xi e Psi, non erano necessarie, e l'eliminazione dell'aspirata H e del di gamma F impoverirono il canone. Si può dimostrare che i nomi delle lettere dell'irlandese Beth Lewis Neon, che secondo la tradizione giunsero in Irlanda dalla Grecia passando per la Spagna, formavano in origine un arcaico incantesimo in greco in onore dell'arcade dea bianca Alfito, che nell'epoca classica era tanto decaduta da diventare uno spauracchio per i bambini. La successione delle lettere dell'alfabeto cadmeo, perpetuata nel nostro ABC, pare sia dovuta a un volontario errore dei mercanti fenici. Essi si servivano di un alfabeto segreto per i loro commerci, ma temevano di offendere la dea rivelandone l'esatta sequenza. Questo argomento importante e complicato è esaurientemente discusso nella White Goddess. Le vocali aggiunte dai sacerdoti di Apollo erano probabilmente quelle citate da Demetrio, un filosofo alessandrino del primo secolo avanti Cristo, nella sua dissertazione su lo stile. In Egitto i sacerdoti intonano inni agli dei pronunciando successivamente le sette vocali, e il loro suono produce sugli ascoltatori un piacevole effetto musicale, come di flauto o di lira, ma forse è meglio che non mi dilunghi su questo argomento. Ciò lascia supporre che le vocali fossero usate come musica terapeutica nei santuari di Apollo.